frequenze Sui Generis. Innamorati del femminismo. E un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Come tutti i lunedì, rieccoci qua per una nuova puntata di Frequenze Sui Generis. Oggi lo studio è piuttosto pieno perché siamo qua in quattro e insieme a noi lo studio è pieno di un sacco di libri, perché questa è una puntata un po' speciale. È l'ultima puntata prima del Natale e quindi anche noi di Frequenze Sui Generis abbiamo pensato di proporvi una puntata natalizia. Sì, ci adeguiamo un po' a questi standard, però comunque lo faremo in modo nostro, diciamo, proponendovi dei titoli anche un po' legati a quelli che sono gli argomenti delle nostre puntate, ovviamente. E questo studio è pieno, siamo in quattro e soprattutto c'è di nuovo anche Alina. Io sono così contenta, la sto incastrando di nuovo. Guarda Anna, vederti felice sotto Natale veramente è qualcosa di eccezionale, meraviglioso. Alina torna sempre con noi. In realtà Anna, la sua positività è un evergreen, possiamo dire. Io ogni tanto faccio le incursioni in questo studio e la cosa in realtà mi sta piacendo molto. E io spero davvero che tu continuerai a farlo, anche se purtroppo questa forse sarà la mia ultima puntata per un po' di tempo. Non so se riusciremo a fare una puntata della Befana, ma altrimenti potrebbe essere la mia ultima puntata, visto che dopo dovrei andare in Svezia. Non ho ancora i biglietti aerei, ma la speranza è l'ultima a morire. Dovrei andare in Erasmus, quindi insomma Alina dovresti sostituirmi. Adesso lo dico qui in diretta radio, così sarai obbligata. Esatto, adesso Alina non puoi più dirci di no, quindi esatto, sei assunta assolutamente per le prossime puntate di Frequenze Sui Generis. Ma bando alle ciance, allora avrete un po' capito che qua in studio con noi ci sono un sacco di libri, perché la nostra puntata natalizia è una puntata che abbiamo pensato per consigliarvi un po' di regali di Natale, perché che siate consumisti o che non lo siate, che festeggiate il Natale perché credenti o perché insomma tendete a riprodurre riti ancestrali, vedete un po' quello che dovete fare, però sicuramente qualche regalo lo farete. Allora perché non cogliere l'occasione per fare dei regali decisamente femministi? Hai ragione Mari, quindi questa puntata sarà piena di consigli libreschi, consigli di libri decisamente femministi, come hai detto tu. Però prima vogliamo far partire anche un brano. La nostra Giulia non c'è, però abbiamo scelto noi i brani per questa puntata. Io in particolare ho scelto un brano di Cat Power, The Greatest. To be the greatest. Oh man, what if I could start me? And then came the rush of the flood. Stars of mine turned deep to dust. Melt me down. You can watch the space and the time for the lid and the dreads in my bed. Been sleeping, lower me down in the end, secure the ground. Rientriamo dagli studi di Radio Città Fujiko. Allora abbiamo detto che oggi siamo un po' anarchiche a livello musicale, ce la scegliamo noi la musica perché Giulia è già in vacanza, però i libri ce li ha proposti anche lei. Allora Giulia ci scrive che per questa puntata di proposte libresche ha scelto tre libri che negli ultimi anni l'hanno appassionata tantissimo e ai quali di tanto in tanto torna per trovare conforto e forza. Sono autobiografie di donne appassionate e tenaci, caratterizzate da una professione che perseguiranno con dedizione, ricerca, tanta determinazione per tutta la loro vita. Per me, scrive Giulia, le vite di queste donne sono un esempio, il loro modo di scriverle ipnotico e toccante. Il primo in realtà ce l'aveva già accennato nella prima puntata, se mi ricordo bene, è Just Kids di Patti Smith. E infatti scrive: la prima non poteva non essere una cantautrice, conosciutissima a livello mondiale, forse lo è meno la sua storia e il modo in cui arriva ad essere celebre. Con una grande umiltà e talvolta una vita di stenti, a vagare per le strade di New York, in hotel abitati da artisti e poeti maledetti, in soffitte piene di poesie e disegni. Continuando a lavorare duro per rincorrere e costruire il proprio sogno artistico, classico che prende forme differenti, fatto di collaborazioni, tentativi e fallimenti, amicizie profonde e amore sgangherati, fino a trovare la propria dimensione ultima nella musica, nei suoi testi. La scrittura è semplice e chiara, trasparente come i suoi testi. La descrizione degli incontri folgoranti, delle difficoltà anche estreme, avviene in un modo talmente naturale e pacato che si ha l'impressione che sia stato un processo necessario, lineare, che avrebbe portato necessariamente in quella direzione. Non è forse così la vita? E a questo punto io proporrei, visto che le descrizioni di Giulia sono anche un po' lunghe, di passare alla presentazione di qualche libro da parte nostra e poi di leggere gli altri due uno a testa, diciamo. Che cosa ne dite? Anna, mi sembra un'ottima idea. Allora, visto che ho preso la parola, vi propongo uno dei libri che avevo scelto per questa puntata. Visto che appunto si parla di Natale, del consumismo del Natale, è una festa religiosa, ma siamo atei, non siamo atei, siamo credenti, spirituali. Il libro che vi propongo è Un eremo non è un guscio di lumaca, di Adriana Zarri. Chi era Adriana Zarri? Per chi non la conosce, era una teologa, una scrittrice, una monaca e anche un eremita, perché dovete sapere che Adriana Zarri nel 1975 decise di dare proprio una svolta radicale alla sua vita monastica e appunto ha abbracciato l'eremitaggio. Praticamente aveva deciso di fare una vita che scegliesse la solitudine e il silenzio e ha vissuto in campagna allevando animali, curando i fiori, ma continuando a scrivere su giornali e riviste, tra cui anche Micromega e Il Manifesto, e ha combattuto comunque un sacco di battaglie. Ad esempio, lei ha preso pubblicamente le distanze da CL, da Opus Dei, e si è schierata apertamente a favore della legge sull'aborto. Allora vi riporto uno dei brani che si possono trovare all'interno di questo libro, appunto Un eremo non è un guscio di lumaca, che parla proprio del Natale, che ci dà un po' la cifra stilistica di questa autrice, di questa donna. E lei dice: in questo Natale consumistico ci sono personaggi politici e grandi industrie che regalano un'automobile, un fuoribordo, un elicottero, una casa, mentre tanti poveri abitano tuttora in baracche di legno. Ma a che scopo dare una casa a un poveraccio? A che serve? Non è un grande elettore, non dispone di leve di potere, non può giovarci in alcun modo, e allora se ne stia pure là, tra i suoi ragni e i suoi topi, con la modesta consolazione di un gattino che dà la caccia ai roditori e inoltre fa compagnia e perfino le fusa. Che si vuole di più? Neanche Gesù bambino, a quel che dicono, aveva niente di più. Si contentava di due bestie, se poi c'erano, e predicava beati i poveri, e allora che i poveri se ne stiano contenti e quieti, senza contestazioni e senza scioperi, se fosse possibile senza nemmeno sindacati, e ci lasciano in pace. Per loro è il regno dei cieli, e se lo tengano pure, noi invece ci teniamo il regno della terra, e il Natale è una delle tante occasioni per celebrarlo e difenderlo. E io, Mary, se posso, vorrei inserirmi su questo testo, perché mi ha richiamato un sacco di cose. Intanto vorrei dire che secondo me l'ultima tendenza in fatto di poveri, oltre a starsene quieti e tranquilli, è anche quella di non farsi vedere proprio, no? Il decoro è un po' questo. Sì, sarebbe meglio. E poi, oltre a questo tema, avevo deciso di non proporlo perché lo ha scritto un uomo, e in realtà lo ha scritto una donna, però parla della vita di un uomo e tutto quanto, però si parla di consumismo, io lo sto leggendo e mi piace tantissimo, e quindi propongo come libro anche La felicità e il potere, che racconta la storia di Beppe Mujica e sul consumismo e sul sistema in cui viviamo ha veramente moltissimo da dire, e anche la sua vita comunque è abbastanza interessante. Invece la mia proposta è un libro in lingua inglese di Amanda Loveless ed è una raccolta di poesie il cui titolo è The Princess Saved Herself in This One, quindi la principessa si salva da sola in questo libro. Questa raccolta è divisa in quattro capitoli intitolati ognuno a seconda dei ruoli tipici delle favole di Prop. Quindi c'è la regina, la principessa, la damigella e alla fine tu, così si rivolge l'autrice direttamente alla lettrice. E poi su questo punto io ho dei dubbi, però è molto bello perché anche se all'inizio aprendolo avevo un po' un pregiudizio perché pensavo appunto che si volessero ricalcare dei ruoli stereotipati, invece c'è anche un'operazione grafica che cancella i ruoli tradizionali e invece fa parlare il soggetto in prima persona, quindi l'autrice stessa, e racconta un po' della sua esperienza, quindi sembra quasi un percorso di consapevolezza. È arrivato il mio turno. I miei consigli sono consigli per prossimi futuri genitori. Infatti sono due libri che a me piace regalare alle amiche o agli amici che aspettano un figlio o una figlia. Il primo libro è Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti e il secondo libro è Cara Ijeawele, ovvero 15 consigli per crescere una bambina femminista di Chimamanda Ngozi Adichie. Per quanto riguarda il primo libro, Dalla parte delle bambine, è scritto da Elena Giannini Belotti, che era una educatrice, e parla proprio del condizionamento culturale a cui sono sottoposti i bambini e le bambine. La tesi del libro è che non esistano delle qualità maschili e femminili, ma delle qualità umane. Quindi quello a cui ci esorta il libro è e di lasciare i bambini e le bambine liberi di sviluppare il proprio io, la propria personalità. Noi facciamo dei progetti nelle scuole e vediamo come questo sia molto difficile, perché appunto i bambini e le bambine subiscono molti condizionamenti. Ancora, come spiega l'autrice nel libro, ancora prima di nascere già si proiettano sul neonato, sulla neonata, delle rappresentazioni che vogliono appunto che i maschi siano in un certo qual modo e le femmine in un altro. A me, per esempio, è capitato di avere questa discussione con una mia amica che mi raccontava che la figlia è un po' civetta, perché sai, è una femmina, quindi è civetta. Io le facevo notare che a questa bambina in continuazione le viene detto: ma quanto sei bella, come sei carina, le vengono regalati dei gioielli finti, ovviamente, e quindi ovviamente ci mettiamo anche noi del nostro per farla diventare civetta. Insomma, leggetelo, perché è un libro che aiuta i futuri genitori. A questo punto, Vivi, io colgo un po' la palla al balzo, perché uno dei libri che avevo pensato di consigliare è un libro che invece è proprio da regalare a un bambino o una bambina, secondo me, anche se potrebbe essere bello da leggere anche da adulti, che è Extraterrestre alla pari di Bianca Pizzorno. Un libro ormai un po' datato, ma secondo me è molto attuale e molto legato anche a quello che stavi dicendo proprio tu, cioè alla ossessione per la determinazione di un genere, quindi di tutte le sue caratteristiche. E racconta in pratica la storia di questo extraterrestre, appunto, che viene adottato per 10 anni da una famiglia italiana, e in pratica nel momento in cui arriva si scopre che dal pianeta da cui viene, ovvero Deneb, i bambini non hanno un genere. Il genere viene determinato poi dopo, più tardi, quindi arriva Mo, questo extraterrestre, e i genitori rimangono sconvolti perché non sanno come comportarsi, perché dicono: ma se è un maschio mi devo comportare in un modo, se sono una femmina in un altro. Non vi racconto tutta la storia perché intanto non abbiamo tutto questo tempo e poi a questo punto non avrebbe neanche più senso leggere il libro, invece è bello da leggere. Però insomma, secondo me può essere un gran bel libro da regalare a un bambino o a una bambina. Anche perché è un libro che è piaciuto molto anche a me, e la cosa molto bella è lo sguardo che Mo ha sul pianeta Terra, i suoi occhi attoniti che guardano questa differenziazione uomo-donna. Quindi il primo giorno in cui arriva sulla Terra vede che è finito il pasto, la madre si alza per sparecchiare, invece il papà rimane seduto e chiede ai suoi cuginetti adottivi: ma cosa succede? Ma forse il papà sta male, è ammalato, ma perché rimane seduto mentre il lavoro lo fa tutto quanto la mamma? E quindi fa molto ridere anche lo sguardo che lui ha su quelle cose che noi riteniamo assolutamente normali, mentre invece viste con gli occhi di un cosiddetto alieno del mondo della parità sembrano veramente assurde. Allora ci fermiamo un attimo per ascoltare il prossimo brano, e il brano che ho scelto per questa puntata è Static dei Comaneci. Dopo aver ascoltato i Comaneci, ritorniamo negli studi di Radio Città Fucico. In questi giorni mi è capitato sotto gli occhi un libro, si intitola Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza, e raccoglie 20 storie di donne che hanno partecipato, diciamo, all'avanzamento della scienza, che però poi rimangono sempre silenziate in qualche modo. Però ciò che mi ha colpito in particolare è il titolo, perché appunto donne è preceduto dal prefisso super, come a sottolineare l'eccezionalità di queste donne. Magari eccezionale in un certo periodo storico, però è anche sintomo di qualcosa che forse ad oggi creerebbe qualche problema, perché si rifà a quella tradizione che con questo programma e con le pratiche di ogni giorno si vuole un po' estirpare. E poi un'altra questione che mi ponevo sempre sui regali da fare alle più piccole e più piccoli è proprio il target, no? Quando ci si chiede, ma questo, ricollegandomi al tuo discorso, Viviana, questo è per bambine o per bambini? Beh, io questo libro lo regalerei a entrambi. Allora io ne approfitto per dire che così come i giochi e le professioni e le scuole io credo che siano per tutti e tutte, io credo che i libri siano per tutti e tutte. Il problema, come dici tu Aline, è che a volte inserendo determinate parole nel titolo si tende un po' a genderizzare determinati testi, nel senso che io credo che sia purtroppo molto difficile che storie e vite di super donne che hanno fatto la scienza venga regalato a un bambino, e questo è un grande peccato. Il secondo libro che vorrei consigliarvi, che avevo anticipato prima, è Cara Ijawele, ovvero 15 consigli per crescere una bambina femminista, di Chimamanda Ngozi Adichie. È un libro che ha una sua storia, nel senso che Chimamanda lo ha scritto perché una sua amica le ha rivolto questa richiesta. Ha detto: io ho avuto una bambina, come faccio a crescerla femminista? E allora, per rispondere a questa domanda della sua amica, l'autrice scrive questo libro, che è un insieme di 15 consigli per crescere una bambina femminista. In realtà io penso che sia un libro che non vada bene soltanto per chi sta aspettando dei figli, perché fa riflettere molto anche sul rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori. In particolare io ho riflettuto molto, per esempio, su quanto mia madre e mio padre abbiano fatto per crescermi come una femminista, e volevo leggervi il primo consiglio, che è: sia una persona completa. La maternità è un dono fantastico, ma evita di definirti solo in termini di maternità. Sia una persona completa, tua figlia ne trarrà beneficio. Quindi, come vedete, a partire dall'occasione di dare dei consigli, l'autrice riflette anche su temi molto importanti, come appunto quello della maternità. E il secondo consiglio ci fa capire anche una seconda chiave di lettura del libro. Il secondo consiglio è: fatelo insieme. In questo capitolo del libro l'autrice parla proprio della genitorialità condivisa, cioè del fatto che i padri hanno un ruolo importante tanto quanto quello delle madri, e l'educazione dei bambini e delle bambine dovrebbe essere affidata e gestita da entrambi, e non soltanto affidata alle cure materne. Quindi in definitiva direi che questi 15 consigli per crescere una bambina femminista funzionano più come 15 consigli per crescere dei genitori femministi, per cui lo consiglio vivamente. Cambiando un po' completamente argomento, passo all'altro libro che avrei voluto consigliare. In realtà è un fumetto, si chiama Il blu è un colore caldo ed è di Julie Marot, non so se si pronunci così, è un'autrice francese, è uscito nel marzo del 2010, io in realtà l'ho scoperto attraverso il film, che forse è più noto, ma anche il fumetto è molto bello. Però il film, che se non l'avete già visto vale la pena di vedere, è La vita di Adele. Ha vinto il Festival di Cannes del 2013, l'ho visto grazie a un mio amico che a un certo punto mi ha detto: ma tu fai una trasmissione femminista e questioni di genere, non hai mai visto questo film, ti devi vergognare. Insomma, l'abbiamo visto, è un film bellissimo. Beh, un po' di mansplaining non si rifiuta mai a nessuno. In questo caso devo dire che aveva ragione, almeno io sono stata contenta di ricevere questo mansplaining, nel senso che ho visto un film davvero bellissimo. Tra l'altro non vi spoilererà neanche il finale del fumetto, perché sono due finali diversi, è l'unica cosa che cambia. Però fondamentalmente la storia è quella di due ragazze che si innamorano, e poi c'è tutta questa storia d'amore, non è solo questo, insomma, se volete comprate il fumetto e guardate il film. Però la cosa veramente bella è che l'amore è raccontato, secondo me, in un modo così completo e bello e travolgente, che non ha assolutamente niente a che fare col genere delle persone, come dovrebbe essere. Cioè, sono due donne, ma non è qualcosa di dedicato alle lesbiche, ovviamente. È qualcosa che colpisce come storia d'amore, a prescindere dall'orientamento sessuale o dal genere di chi lo guarda e di chi lo legge. Parlando di libri, vengono in mente altri titoli e altri libri, perché ascoltandoti, Anna, mi veniva in mente un altro libro, questa volta di un autore italiano, Pier Vittorio Tondelli, che è Altri libertini, che è anche quello, è un libro che parla di storie d'amore omosessuali, in questo caso, quindi fra uomini, e che io ho letto appassionandomi, anche molto impersonificandomi nei personaggi, senza pensare al genere delle persone, dei personaggi che vivevano questo amore. Quindi diciamo che la grande letteratura sa fare anche questo. E a proposito di Tondelli, che tra l'altro Altri Libertini appena è uscito è stato censurato negli anni Ottanta ed era uno di quei libri che parlava di AIDS, omosessualità, transessualità, quindi un libro considerato irriverente in qualche modo. Un altro libro di Tondelli molto molto bello, però fa anche molto male per la storia raccontata, è Camere separate, che racconta proprio la relazione tra questi due uomini, però a me ha lasciato l'amaro in bocca perché è molto emotivo. Quando si dice che gli uomini non sono emotivi, è secondo lo stereotipo, è appassionante in qualche modo. E a proposito, visto che siamo nel tema dei libri che ci vengono in mente e di amore e sessualità, oltre gli orientamenti sessuali che può appassionare un po' tutti, non so se si trovi ancora in libreria, io l'ho trovato in casa di mia nonna, però c'è una raccolta di poesie erotiche di Verlaine che è bellissima, e tra l'altro sono poesie sia di rapporti tra uomini e donne, sia di rapporti tra uomo e uomo. Non è neanche sempre chiaro di cosa si tratti, è chiaro solo perché il libro è diviso in base a queste categorie, però in realtà non è neanche sempre chiaro se si riferisca a una compagna donna o a un compagno uomo. Comunque è veramente bellissimo, anche molto erotico secondo me, non so perché l'ho trovato in casa di mia nonna, ma ne sono contenta e lo consiglio, è molto bello. Poesie erotiche di Verlaine. Allora, visto che siamo arrivati al tema erotismo, e visto che per avere un sano erotismo serve anche una sana conoscenza del proprio corpo, il libro che vi propongo è in realtà un fumetto di una fumettista svedese che si chiama Liv Stromqvist, che appunto è autrice di questo fumetto che si chiama Il frutto della conoscenza, e questo è un libro che io consiglio tantissimo alle donne, ma lo consiglio caldamente anche agli uomini, perché appunto è un fumetto veramente preciso e veramente spassoso che ci racconta tutto quello che dovremmo sapere sugli organi genitali femminili. Ad esempio, io non so se voi sapevate che soltanto nel 1998 si è capito come in realtà fosse fatta la clitoride. Voi lo sapevate? Ovviamente no. Ecco, pensate che soltanto nel 98 si è scoperto che l'organo vero e proprio è lungo dai 7 ai 10 centimetri e ha due radici che avvolgono i lati della vagina. E questa è soltanto una delle cose che si possono scoprire, ma come dicevo il libro è veramente molto buffo. Ad esempio, parlando della sindrome premestruale, l'autrice ci racconta che l'antropologa Emily Martin ha mostrato come la discussione sulla sindrome premestruale, quindi sulla capacità o meno di fare determinate cose da parte delle donne nel momento, insomma, di questa sindrome, è stata, diciamo, diminuita nei periodi in cui ad esempio la forza lavoro delle donne era necessaria, quindi durante le guerre non c'era più un problema di sindrome premestruale che impediva alle donne di lavorare. Poi, finita la guerra, di nuovo si riparlava del fatto che determinati lavori le donne non li potessero fare proprio per questa causa. Fa molto ridere il tono ironico che lei ha, perché ad esempio dice che non c'è mai stato nessun ricercatore o medico che nel corso della storia abbia mai scoperto che le donne ad esempio non sarebbero adatte a prendersi cura dei bambini a causa delle loro pericolose oscillazioni ormonali. E quindi, insomma, anche questa è stata una cosa divertente che fa assolutamente riflettere. Quindi lo consiglio caldamente a tutte e a tutti. E restiamo ancora in tema piacere e sessualità, ne abbiamo già parlato su queste frequenze tra l'altro con Nicoletta Landi, e proprio di Nicoletta Landi, educatrice alla sessualità, è appena uscito un libro che è la pubblicazione della sua tesi di dottorato, che si chiama Il piacere non è nel programma di scienze, educare alla sessualità oggi in Italia, è uscito per Meltemi, e questo lo trovate sicuramente su internet ma anche nelle biblioteche, quantomeno a Bologna, è un orgoglio locale, quindi anche questo è un libro che mi sento di consigliare, anche se devo dire non ho avuto ancora occasione di leggere perché è uscito veramente poco tempo fa. E chiudiamo con l'ultimo consiglio che viene da Giulia. Giulia ci consiglia Attraversare i muri di Marina Abramovic. Ha da pochissimo compiuto 71 fantastici anni di arte. Marina Abramovic, l'artista performer per eccellenza, che ha scioccato ed emozionato il mondo con le sue installazioni e performance in cui espone il proprio corpo e la propria identità di artista, mettendolo a disposizione dello spettatore, in un dialogo che non è mai univoco ed unidirezionale. La storia della sua vita è affascinante e potente, la continua ricerca su se stessa e sui propri limiti e sul superamento di tali limiti, talvolta rischiando la pelle, è incomprensibile ed emozionante allo stesso tempo. Una donna piena di amore e altruismo, che espone se stessa nei musei, obbligandoti a sostenere il suo sguardo penetrante, a patire con lei la sofferenza di essere sdraiata su una lastra di ghiaccio, a sfiorare con imbarazzo il suo corpo nudo, passando attraverso una porta. Gli amori, una vita che sa sembrano tante vite vissute contemporaneamente, con gli aborigeni australiani, con gli sciamani messicani, nei templi buddisti dell'Asia, ripercorrendo la muraglia cinese, e poi ad Amsterdam, New York, Roma, attraversare i muri, racconta che tutto è possibile se tu lo decidi. E che Ulay è una brutta persona. Insomma, questo era il nostro ultimo consiglio, attraversare i muri di Marina Abramović. Speriamo di avervi dato tanti spunti per i vostri regali di Natale e non ci resta che salutarvi, ma prima ricordiamo i nostri contatti. Sì, infatti il podcast lo potrete ritrovare sulla pagina Facebook Frequenze Sui Generis, che se non state già seguendo dovete seguire, fateci questo regalo di Natale anche a noi, e sul sito www.radiocittafucico, e ci ritroverete sempre sulle frequenze di Radio Città Fucico, sempre dalle 14.30 alle 15, sempre lunedì nel 2018, non sappiamo ancora bene quando, ma se seguite la pagina Facebook appena lo sapremo ve lo diremo. Non ci resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto su queste frequenze, un buon Natale, un buon anno e soprattutto un buon ascolto dell'ultima canzone con cui ci salutiamo. E allora ascoltiamo Senza un perché di Nada, da un album del 2004. Bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Lei non parla mai.